scusa, ma non penso, allora lo lascio cantare e boh, hai capito? E vabbè, no, non c'è problema. Il problema è che tanto cosa stai lì a lamentarti, fare, ma fa chiudere e via. Vabbè, se no, ascoltare solo vado lì a... hai capito? E che sai tu, è tutto quanto, dai. Beh, dai, ciao ciao. Giuseppe, ci sentiamo la prossima. Allora, vabbè, è qui che sì. Ci sono faccio su io. Ah, ma puttana, era meglio. Lascio fare, non mi interessa. Ok. Ciao Gianni, da Chiaramonte. Già ti ho sentito, salutoni. Ma qui ci sono portanti, se non metto la portante già ti sento, ma diversamente aspettiamo un momento migliore. Riprendi Luca. Ma io non lo sento a Gianni di Chiaramonte. Ma già lo sento io. Gianni, ho detto che ci sono portanti qua, se ti lasciano parlare io ti rispondo molto volentieri, però qua di tanto in tanto c'è qualcuno col dito facile, perciò aspetta momenti migliori, cosa vuoi che ti dia? Vabbè, dai, avanti Luca, riprende, se non ti fa niente nessuno. Non è che metto di qui intanto. Comunque sia, vediamo un po' sia con Roberto Bandito, tornando avanti, vediamo se lo senti Giulio. Vai Roberto. Adesso facendo il lavoro in macchina qua. Stai rimettendo la batteria, c'è tutto Vai a levare fuori, stazionario. Sicuramente. Vabbè, lasciamo qua noi, dai. Va bene, avanti Giuseppe, riprendi. Non c'è più. Ma hai avuto problemi di salute, Giulio? Sì, Luca. Ma è passato ormai. Ah, ecco. Vabbè. Vabbè. Quelli vengono purtroppo. Vabbè. Tu lo sai, non ha avuto che non fuma, non bevo, non fa di niente. Direi il peggio. Ma che uscita a voi? Dice la sigaretta fa male. Beh, fa male. Tutto fa male. Anche mangiare? Un po' tutto è Luca. Solo fortuna ci vuole. Sigaretta, ancora io sigaretta non ho mai fumato, dunque. Bevuto, non ho mai bevuto di conseguenza. Quando vieni bene, non c'è niente da fare. Vabbè, là. Che ci vogliamo fare? Troppo così. La vita è così e via. Avanti un altro. C'è Gianni che sta sempre chiamando. Gianni! Un pochino e poi vedremo, vabbè, riprendi Charlie da Chiaramonti, Luca non ti ascolta. Giulia. Un attimo, Giuse. perché tu non arrivi da tutte le parti, qui a Sassari, solo io riesco in questo momento a tirarti fuori. Se vuoi ripetere, vai Gianni. Ok Gianni, ricambiate il tutto al 100%, non ci sono dubbi. Quando gli amici meritano e basta, tutto lì. Vabbè, avanti Giuseppe. Mamma, ehi Ada, saluto, non appartieni a Gianni di Chiaramonti, che non lo sento, e dite che è stato operato malato, abbiamo parlato una volta, già mi faccio sentire anch'io. Ok, Gianni ti saluta Giuseppe da Sassari, nemmeno lui riesce a sentirti, e dice se tu magari ti fai sentire dove solitamente vai, in quel posto migliore diciamo, per la radiofrequenza, e magari riesce a ascoltarti anche lui. Adesso lo so che in questo momento lo puoi, ma quando ti fai la questa greca in quel posto già ti sentiamo tutti qua a Sassari, già vi hai capito dove. Vai Gianni. Forse hai cambiato microfono, non lo so, evidentemente così, confermi che hai cambiato microfono. Perché la radio è aumentata abbastanza, forse adesso riesci anche a sentirsi Luca, adesso glielo chiedo. Luca, l'hai sentito adesso Gianni? No, negativo Gianni, non ti ha sentito nemmeno adesso Luca. E comunque confermo, la radio è aumentata un bel po', è aumentata Gianni. Forse non hai sollevato tu il microfono, non lo so cosa hai fatto. Insomma, so solo che ti ho sentito meglio in questi ultimi due passaggi. Va bene, dai. Giuseppe ti saluta Gianni comunque da Chiaramonti, ti ricambio il saluto. Avanti Giuseppe. Sì, ricambiati quello, infatti la batteria che ti è presa alla zona X, abbiamo modulato e io e Gianni proprio lui, è capito. Già lo sa, l'altra volta quando siamo stati giù, io stava abbastanza. Ok Giuseppe, adesso no, magari quando si avvicina verso Sassari, magari in quel monte alto, allora già è in grado di farsi sentire un po' da tutti qua, va bene così. Avanti Luca, canta. Ehi, sei come una cantata, ma io dico, che gusto ci prendo, certo, vieni, vai, risolvi. Diciamo di persona, perché se andiamo a rompere le scatole, buff, io questo non capisco, se no qualcosa non te lo prendo le ruote, te lo dico, giuro, fatta così, ma io te lo rompere le male, non ho capito, buff, male gente, a pensare che accusavano a me, non facevo importanza. Poi, ma per carità, almeno la mezza la potente, cioè la potente è una messa. Quando copri a tutti, allora quella è una portata, non è che copri solo una persona, poi soprattutto debole, ci aiuta. E cosa ci vuoi fare? Purtroppo è così, ci sono queste persone che sono convinte di dare fastidio, invece non fanno nemmeno un solitico. Uno se decide di mettere una portata devi... un minimo di buona potenza e pure basta, allora facciamo così, non nessuno che te ne frega. Dai Giuseppe, io aspetta, io faccio una cosa lì. Prendo, ma non ce la porta. Non devo verificare con nessuno. Infatti è così. Tu lo sai quanto me. Che problemi ci sono? Noi andiamo avanti lo stesso. Vabbè, sono tu pazzo adesso. Vabbè. Sono tu pazzo adesso. Lui ha mai dato la caffè coffè. Sono Roberto, arriva qua. Sono Roberto. Grazie, grazie. Vabbè, cosa te lo mi affrenta? Ho aumentato, lo rivolgo sicuramente. Tu ce l'hai mai curata, Robè? Ma sì, sono a casa. Sono a casa tua. Più bravo che c'è, più aumenta l'uno. Vabbè, solità. Ciao a tutti, ciao. Meglio non entrarci. Ciao, Claudio. Cosa vuoi fare? Fiume, se sei io pescando per queste stupidaggini, manco me penso. Ebbe qua, dopo lunga, cioè dopo tanto tempo, ci si risente. Aspetta, scusa, Cla, quanto te la portate da te? Lo puoi dire, Cla? Solita, 9 più 20. Ah, ok, ci siamo capiti. A Fotellino, non lo provocare, bisogna mirare un lineare, hai visto come subito come ha aumentato. Cassa va. No, no, rimani in ascolto, Giulio, sì, ti ringrazio, ho ben ascoltato anche a te dopo tanto, ma io no. A questi livelli per me è molto difficile continuare a fare il GB, capito? Quindi preferisco stare in silenzio e subire queste cose. Non mi va proprio. Dai, buon sabato a tutti, tanto mi fra un po' me ne vado a Castelsar dove c'è la sagra del pescatore. Quindi divertitevi che io vado a pescare, a mangiare e a bere. Ciao a tutti e alle prossime telecomunicazioni. Ciao ciao. Ok, ciao Cla, salutori. Grazie per essere stato a salutare. Ripeto, la mamma degli imbecilli è sempre incinta, ma no, non se ne fotte niente. Peggio è che mi fido di una scrofa, cosa vuoi che ti dica? Non posso dire altro. Vai Luca. Ehi, ciao Cla. Ora andiamo a portare se invece. Quanto c'è questa, buh. Va bene. Sì, va bene. Allora Giulio, che è stato male, là. Non ho saputo niente. La prima cosa che sento. Infatti ogni tanto non passa a voi le tue coordinate. Lì cucina a lavoro. Vedevo sempre chiuso. Sempre chiuso, sì, da più di un mese. Da più di un mese è chiuso e rimarrà chiuso tutto il mese, tutto questo mese anche, poi vedremo se ne ho voglia di rientrare a settembre, boh, e se no non ne rientriamo più e non si va da più. Adesso vediamo. Comunque, il problema l'ho risolto, dunque, è tutto andato bene. Vabbè. Ok. Alla grande. Vediamo se ce la lasciamo sentire a Giuseppe. Avanti Giuseppe. Giulio, il discorso è questo, che prima c'è la salute, voi siete corretto, hai capito? Prima la salute, ti portate stare bene di salute e tutto quanto, poi per il resto, anche del trabacco, ce ne possiamo fregare più che a meno, ho capito? Però prima c'è la salute, perché senza quella non concludi niente. Beh certo, ma è così. È così, anche perché sei obbligato a fare così. Non è che lo puoi decidere di tua spontanea volontà. La salute ti obbliga a fare certe scelte. Di conseguenza bisogna accettare anche quello. Interessante è stare poi bene sempre in seguito, poi quello che è avvenuto è avvenuto e è via. Non, niente di particolare comunque, niente di... una semplice operazione, basta, niente di così trascendentale. Va bene, dai, vediamo se ci lasciano sentire a Gianni da Chiaramonte. Avanti Gianni! Va bene, avanti Luca! Altrimenti dal capo. cazzo che ci prendono, boh boh. Giulio, guarda che dovrò esserci Antonio Grotte, che sta chiamando, ha chiesto anche il prezzo, però no, io lo sento più mio, guarda se lo senti tu, Attento Antonio Grotte. Ma facciamo anche l'aria. Sempre vuoi. No, ho l'impianto quello 21. E anche peggio. Ti sei un pazzo. Vabbè, adesso hai avuto tu il... Non mi ricordo la Y10 che era avvicinante. Non ci può più rimanere dentro. E questo è peggio. Ah, è vero, no. Una volta mi sono seduto, guarda, di San Viglio. Siamo andati lì da Pusa per accompagnarlo, no? Ma senti questa cosa, come ha sollevato, così che stavo mettendo nel vomito. Lo so. Se mi avete troppo è troppo, cosa devi fare? Vabbè, se fai le gare un conto. Vado pure un'altra macchina io. Ma ecco, per fare le gare? No, perché mi piace, sono una macchina americana. Modena, ma ristrano. No, non ce la so. Bravo. però. Va bene. Stavo contando una cosettina qua. A proposito, Antonello, io ho un elicottero, mi serve una batteria ricaricabile da 7 volts. Ma guarda, è un volt, non so come si dice. Cosa mi dici tu a me? Le batterie a 7 volts non ci vengono, solo le macchine fotografiche ci vengono. Quelle lì. Addirittura rimonta il microfono che c'è Giuseppe, monta quella batteria lì a 7 volts. Non è quello ricaricabile, quello elicottero. Dovete ricaricabile per il elicottero, non so se le vendono ricaricabili quelle. Comunque, vabbè, quelle normali durano, non è che durino molto, Posso dire, allora, qua praticamente come, non è una batteria cellulare, è molto stretta, praticamente, qua dico più o meno una misura, aspetta, questa non è batteria, allora, qui c'è il elicottero come è fatta. Aspetta, allora, la segna a guido, allora sarà più o meno 5 cm lunga e larga 1,5 cm, quasi 2, come ti posso dire, una caramella, dai. Ho capito, già riconosco già quelle batterie, non lo so, potresti... forse la cosa lo vedi la buschi senz'altro, dai fotografi, perché loro montano quelle batterie per le macchine fotografiche sono ricaricabili, sono capito, quindi le procuri tranquillamente di lì, o a meno che non ti fai in giro dai cinesi giù a Pedranietta, da Insitti, c'hanno un sacco di batterie di vari modelli, però non so se sono ricaricabili la verità, perché non ci ho fatto caso. Dalla CBC, Antonello. Ma comunque quella da 7 volte è così, come Giuseppe. Sono ricaricabili. Quella che monta, come si chiama, le macchine fotografiche sono ricaricabili, capito? C'è anche quella dell'elicottero che c'è lui. C'era anche io un elicottero, però è piccolino, quelli che vendeva cosa, come si chiama, che adesso non c'è più come negozio. Ma succede a posto suo, non gli va a prendere niente. Vabbè. Io hanno detto di venire qua vicino, mettersi alle piscine a parlare, a me non arriva a prendere in macchina, non sa cosa fa. Preso una batteria, ma anche se sono dei cinesi, 1,5, è buona carica. Sono cariche, non fare una batteria quella là. Perché non può essere, sono sempre mi sono contento adesso. Va. Tanto dicevo sono pagliati a montare, sono più a poco. Cioè, quelle dei telecomandi sono 12 volte, vabbè, non è che ci sia tutto questo appenaggio, però sono 12 volte. Ti piglierebbe fuoco subito. Forse almeno da 10 volte, 12 li avrebbe anche potuto reggere, ma sono 7, sono un bel po' di volte in più. Lo ritroverà, capito? Ma infatti, vabbè, ma questo qua sono le stile da telecomando, questa sono un gegetta. Il problema è che sale, no? E poi c'è, capito, perde subito il controllo. Non so. Ecco, là mi durava più o meno una mezz'oretta. Dov'è ci muta? Sai lì che mi ha fregato, se no mi avrei contratto. Ci metteva 10 minuti. Non è comprato. Vabbè, no. No. Bocca. Volevo dire che queste batterie che abbiamo, che io ho nel microfono, quella da che nel tubo dell'elicottero, mi sembra che l'ho messa al brico io, hai capito? Brico 7. Lo 7? Lasciamo vedere. Aspetta, mi senti? Cioè, a partire parte, però ci ha fatto subito il controllo. Allora, aspetta, vai. Vabbè, a salire è stato. Vabbè, no. Poi giù un maestro. Poi c'è voglia di faceva 100 metri nemmeno. Ma poi se mi parlava un fumo, saliva. In campagna, però poi nel recuperarlo, poi salite e metterlo in parte. Mi sei fregato, papù. Non ho capito, Giuseppe. Ha detto, se ti sei prontato stasera, però domani mattina ti porto quella questione, dammi, il palazzino ti lo portarò, sai, no? C'è una ballata là sotto, ah, oh, non so. Ascolta, guarda che deve io sono passato un anno con l'altro fratello e mi ha detto che si vuole comprare il palazzino da Fusaro. Quello 65 euro ho detto. Si tacca quello in barca, dato che c'è un po' di gente, ha detto che sono in piazza, mi ha detto. Ieri sera me l'ha detto. Poi siamo andati a vedere un sito, non te ne dico nulla. C'erano i midland, quelli là da 68, alla 48, 139 euro, 160, di meno non vendeva. Io lo so, è costa 68 euro quello là, l'ha preso anche lì, la prossima l'ha preso Antonio Mottolo, quel baracchino lì, però è una scatoletta, va lì. Sì, quello che è scatoletta, è comunque quel pezzo, quel pezzo cosa vuoi, se no un Intec, forse anche gli Intec che vanno bene, si fa la modifica lento. Quello che c'è Antonio Grove va bene, mi c'è un porticello, di sal di porticello tra 200 canali, per quello che l'ha pagato mi pare lui ha pagato 80, con l'apparecchio 70, quello che è, vanno bene, capito, come apparecchietti. A quel pezzo lì, per iniziare va anche bene, poi magari in seguito ti prendi un barattino, voleva andare a terrali, naturalmente paghi di più, non è che se un barattino voleva andare a terrali hai già 75 euro, però te devi aggiungere di roba. Cosa ti ha detto? Lo prende, cosa ti ha detto? Cosa prende? No, che lo prende, se lo compra, ha detto, se lo piace in barca la prossima settimana. Ne stavo parlando ieri, mi sono andato con cosa, con Mario, siccome gli ho fatto salire un po' di antenne da giù, ieri, perché interessava una cosa, ha fatto di Luca, allora ho fatto salire un po' di quelle antenne, e se domani devo cercare i microfoni e poi c'è l'antenne a stilo in acciaio che le faccio salire su lo stesso. Così quando faremo con Antonio Grotti il mercatino le faccio vendere, per testare 35 euro una, va anche bene, cosa vuoi di più? Domani a che ora vengo a casa tua? Domani mattina io dovrei essere giù a Santa Maria da Mario, perché se vuole tingere la 500, boh, adesso vediamo se ha voglia, se no sarà, me ne vado qua a casa, capito? Allora se vengo verso le 11 non ti trovo. Aspetta un attimo, stavo chiamando, chi è che chiama? Dissipando come deve andare, dai leggermente di potenza. perché ho fatto una piccola cosetta, volevo un po' sentire. Tutto lì. Va bene, si sente lo stacco del 60. Se me ne accorgo con la matrice normale. 9P10, radio 5, perfetto, eh. Ok. Fate girare la ruota, non so neanche che ci sia. Salute circolare a tutti. Attacca, da un anno dovrei stare all'armadio, vi sarai, se state in linea, vediamo cosa è successo, non so cosa dirle. No, vabbè, claro, il conto è che lui è a due passi dal mare, c'è la falsità lì, un paio di anni, sono mezzo all'antenna, Non so, sì. No, la radio già va bene, sì, è frusciata perché il segnale è molto basso, c'è qualcosa che non sta irradiando, è qualche PL o non lo so, ma qui lo deve arrivare 9P20 da Alghero, a casa mia, come sempre. Alghero città qua arriva 9P20, quindi se lui non arriva 9P20 l'antenna non sta andando. Sta usando qua? 140. 140. E come di 60? Ah, yeah. Sono bomba, Questo è il mio, il primo, quello che modulavo sempre. Finalmente sono riuscito a commutare, a farlo andare, perché mi mancava il commutatore a 4, lo stavo aspettando, e quindi stavo usando sempre il 430 e l'altro. Capito? Adesso il 140. Una bomba, una radio bella, bella forte, come sempre, dai. Va bene, più che l'ultima. Poi vabbè, quando uno fa le cose fatte bene, è normale che esce bene. Certo che poi se uno fa le cose fatte male, è così. Ma è più... un po' più selettivo, lo sento, rispetto al 4.30, il 4.30 sta diventando un po' sordo il segnale, infatti tu sei 35 pieno, mentre col 4.30 sei 9.30, usandolo col 140, con questo è 9.10 pieno, un picchio a 15, con 4.30 è 9.5-9.10. Allora deve cominciare a essere vecchietta, però non ci sono problemi, già funziona sempre. Tu sei 9.30, a picchi 35. Tu sei 35 pieno, proprio senza picchi, leggero i picchi. Capito? Invece con 4.30 sei leggermente più basso, ma me ne sono accorto l'altro giorno. Capito? Ascolta, Claudio, dobbiamo fare una regolazione. Adesso mi sono detto che stavo curando, io vabbè, tanto parlo di pomeriggio sicuramente, cioè verso le 5, verso le 5, le 6, e al limite facciamo una regolazione per passare un po' lo smite. Ah, sempre non è come le volte, sono sempre a casa, e lo sai, altri non entrano qua, ma tu... cioè le porte sempre aperte, non c'è un problema, vieni, lo facciamo, siamo vecchiati di persona, non c'è problema, sono sempre a casa, non sto da nessuna parte, e adesso voglio uscire, ho lavorato anche stamattina, lavoro anche domani, quindi mi sono buttato nel lavoro e buio tanto, e beh, mi sia rimasto ben poco da fare, perciò. Un sacco di cose da fare. sono messo bene neanche io, Luz. Sono a forzare i battiti di cortisone. Per il braccio, la spalla, non sono messo bene, però ci tira avanti fino a quando dura, quando si decide che non c'è più niente da fare, vuol dire. Ma è una pressione prima di abbigliare i tanti in culo. Se era quella con lo stile lungo di acciaio, E poi ne ha levato parecchi, le altre cose, le altre hanno tutti funzionato. La più bidone mi è venduto. Hanno venduto la più bidone. Dici che non è vero, glielo sa anche lui, mi è venuto la bibione. Quello perché agli amici si dà la roba buona. Sicuro, è Claudio, lo senta Roberto. Siamo sempre Claudio, è proprio una cosa impossibile. Vabbè, mi sta arrivando 9.40, no? Mi dovete arrivare, non dico 60, ma quasi Roberto. Prova adesso. Passato da qua. No, c'è il numero 930 adesso, tu hai 940. Peggiorato. Adesso lo ascolto un chiudo, basta ma lo ascolto, ma poco fanno. A me c'è quasi il piede in corto. Guarda il qua, Roberto. Ciao Roberto, arrivi Santiago Nova a casa mia. Io poco fa mi sono indicato di salutarti. Ciao. Ciao Roberto. No, ma non c'è il piede in corto. Sono da stazionare, comunque. Sentiamo nome qua arriva Luca, quindi cosa che problema c'è? Un pollo che c'è il problema in testa. Lui c'ha l'antenna in corto, c'ha. Poi c'è l'antenna che aveva venduto un pollo, quindi si vede. Ma gli ha regalato Berlusconi, c'è lui. E chi? Come ecco per non sentire l'ombra di Santiago Lombre, qua siamo a 100 metri. Questo è stato ascoltato male, è Santiago 8. Poco fa manco arrivava per niente addirittura. Adesso che l'avevo toccato arriva a 8. Però c'è un QVM con così 80 qua. Ma non so cosa. Io mi che mi ripeto di nuovo la bazooka per poter ascoltare meglio qua. Qua sentiamo, riprendete che io mi sto mettendo, io non esco più. Ciao a tutti, sentiamo le prossime, ciao. Ah, ciao, grazie, andiamo alle prossime. C'è piede in corto. Non può avere qualche altra cosa, perché non è possibile. Vabbè, con questo c'è una cosa che non vuole. Allora che aveva avviato qualche colpo gli si è stacciata, disaldata la carica all'interno di quell'antenna. A volte capita che si disfaldano quelle cariche. È successo a me, non riuscivo a capire il lavoro finché non ho... L'avevo controllata e si era risaldata la saldatura. Non costa niente risaldarla. Capito? Ora io non so se devo arrivare dove sei incarcerato. Comunque tu te lo sai dove sono dietro il palazzo grande, qua dentro, sono nascosto. No, non so. Ma quello che ti arriva la 9.50, sono 9.30. Non so se c'è una cosa che non fa. Oppure magari ho stato andando qua con l'antenna. C'è un nuovo apparecchio, boh. Yeah. mi innervo. Ciao, Bobo. Ciao, Antonio. Ciao, ciao. Cosa stai commentando? Questa stazione è un aeroporto. Boh. Non ne capisco più un cazzo di questa stazione. Una stazione, un aeroporto. Sono le sere. Sono le sere. Mi dove? Aspetta, domani mattina. Tanto cavo. Me la scendo giù. Boh, se ci vediamo un pochettino. C'è una cosa un bel strano. Ormai c'è questa tonte che non riesco a contare. Di più da un po' che c'è una bala. Vedete come fischia. Così siamo accordato di inserito. Sta vedendo meglio. Beh, come accordatore va un po' meglio, sì. Però posso arrivare, ma solo con il microfono non è meglio, comincia a fischiare. Cerca di demodulare la circostruzione quando muovo con la manta, va con 3 o 4 radiali, che non c'è verso di uscire. Un fischio più peggio dell'aria, del coso. Ma mi pare che dimmi, c'è la Gran Prix, rispetto alla Gran Prix qua, intera, almeno quella non fruscia là. Ma io ti ho sentito da al centro storico, ci va bene. Dalla manto ma ci va bene, sì. Io l'ho dovuta regalare la manto, ma perché qua non va bene, capito? Con un altro discorso con fine come quello per ciò che c'era la manto, ma questa cosa sarebbe stata già in terra, hai capito? E poi anche se l'avevo sistemata ci va perfetta, l'ho regalata a Stefano. Stefano mi ha regalato un sacco di cose e gli ha detto non ti voglio avere con quell'antenna, e ti ha regalato un'antennaia, e così ho fatto gli ho dato. Capito? Tu ci va benissimo, tutto ricostruita, guarda che mi sono piazzato un attento, come ho ricostruito la mia, ho ricostruito quella di Salveri addirittura. E quando l'abbiamo piazzata si è affrontato la bobina all'interno. Era tutto ricostruito. Pezzo a pezzo. Mi sono piaciuto un appetto, siamo stati quasi 2 ore e mezzo per essere piace, tra smontare tutto il pezzo a pezzo, le metti di nuovo, eccetera, eccetera. Però quando sei da su uno e stazionare la via e puntava un bel anche con l'antenna. Io sentivo, qualcosa avrà senz'altro. KK. Ma adesso appena a me, quando con me facciamo domenica prossima. Scendiamo giù. Così e tu voglio togliermi questo dubbio per vedere cosa vuole essere. Vediamo un po'. Allora qual è il problema? Che se si è difettoso gli torno indietro. Vabbè che ormai è passato quasi un mese. Dovevo pensarci da subito, quando ho installato, ho detto guarda, avrei dovuto riportare indietro, guarda che difettoso da questa antenna e non la ricambiare, invece non sono tutta così com'è. Ma se la roba di cosa già me la faccio io, non è già mi avvancia. Avevo mi avvancia. Quindi, per questo, la carica è saldata, è a posto, controllata, tutto, anche la massa di sotto, sembra non ci sia niente, che non c'abbia niente. No, mai fatto questo effetto così. Allora, quindi domenica prossimo vediamo un pochettino se lo stiletto magari che da cambiare, mi faccio vedere il coso nuovo la battistino. Battistino c'ha di quello stile con il cerchietto sopra, te dico dove cerchietti che non devono come quello che c'è tu me. Invece questo cerchietto su non è. Te lo metto, quello è questione cerchietto. È lo stile finale, te l'ho detto l'altro giorno, è lo stile finale, dovresti buscarti uno di quello stile finale con i cerchietti. E vedrai ti risolvi tutti i problemi. Mi faccio buscare uno di quegli stili a battistino, mi pare che abbia 7 o 4. Ne faccio una io, uno è solo quella fase, intanto magari sta facendo contatto quello. un linguaggio nuovo e vediamo se cambia la questione. Perché la misura, ho preso il foglietto, 760 mm, sono 7 cm 60, giusto? 7 cm e mezzo. E così ho messo, mi ha scritto, c'è scritto, nel canale 19, mette 7 cm e 760 mm. E così ho fatto. E in stazione c'è scritto 1 e 1, invece non c'è niente. Abbastanza tranquillo, Antonio, sono quelle basta. Se vedrai se cambi con lo stilo finale tu hai risolto il problema. Ah, ma non che non mi sorge il dubbio, le radiali, che siano la misura sbagliata. Perché allora, vabbè, se è la misura sbagliata, posso anche fare una cosa. Li stacco qui e ci metto quelli della Super Medicus, che sono lunghi, 1,50 m. E vediamo se la questione cala. Oppure fare così, però prima avrei fatto quello di cambiare lo stile finale, capito? E poi avrei visto un po' se cambiando anche i radiali avesse cambiato qualcosa, ma io avrei cambiato lo stile finale prima. Infatti faccio così, domani mattina chiamo la testina, me lo faccio salire su uno di quegli stili col cerchietto che avevo messo alla... Adesso l'ho messo davanti, ma quello un demonio, con quella rabbia antistatica, però andiamo a fare la parafulmine, raga. Sì, perché ti fa anche da parafulmine, capito? Ah, vabbè, già c'è il gommino, c'è il gommino, quindi vabbè, quello poi già lo sai spalare anche nella moto, quando c'è quella specie di albero di ombrellino fatto in plastica. Dopo 3-4 mesi che è installata ne va l'uvudo che è l'acqua dentro, invece fa l'acqua dentro, ma non è entra più. Ho visto che fatta riposta la 27 L, adesso ho fatto lo stile in pratica, da un pezzo all'altro è fatto a colo, capito? Quindi quando metti la stessa davanti rimane bello freddo, l'acqua non entra. Già va bene, ma sa fare le prove a noi. Ne fa le provette, vedrà che si risolve il problema. Io faccio così, mi sa che faccio proprio così. Vediamo un po' se risolvono il problema. Mi sa se c'è Roberto Bandito, se vi può. Roberto Bandito, vi sei? Non lo sento più, evidentemente sarà abbattuto. Gapparoso. Ok, dai, faccio un attimo di bianco e riprendo subito a te. Ciao, a dopo. Yeah, a dopo ci sentiamo, là. Ciao, ciao. Ciao, ma sto preparando, devo uscire. Mi ha schivato il telefono, non so se fa un pietro. Forse te la dici anche io, che aspettavo che mi era preso il permesso di telefonare. Non ho capito. Aspettavo un ok per poter telefonare. Ehi, sono incasinati questi giorni, tu. Sentiamo un calo. Ehi, passo, passo, ti ascolto. Santiago 8, capito? Quindi è successo qualcosa in Antena. un gusto allucinante, veramente molto buono. Ah, sì. Poi quello è il rosso, ma è spesso l'atto buono. E vabbè, lì ci vuole spessore, se no non serve a niente a mangiare. La cosa minuta, non è che... E quella radio è composto? Sì, è composto, abbiamo già composto, non ti preoccupare, tutto qui. C'è un problemino, una lampadina, adesso faccio 2 minuti e la cambio, ma è già chiusa, ho fatto una sistematina, accende, funzionante. Poi vabbè, quando si entra un telefono, picco per radio. Ho detto, quando ci sentiamo al telefono ti dico che radio è, dove trasmette. Gappa, no. Ti hai capito? E io già mi capito tutto. Andiamo bene. No, non l'ho già chiusa, l'ho chiusa, poi sistemata, devo metterle un fusibile dietro. E niente, il microfono controllato funziona. Già funziona. Ma se ho parlato lo vado malandato. L'importante è che funzioni, non ti preoccupare, come c'è qui nella collezione. Salviero! L'importante è che, per non buttarlo del tutto, vai. No, andiamo bene, dimmi Gianpa. Ciao, ma cosa c'è qua? Dentro sai? Non lo so, il produttore se non ci scende oggi, scende domani. Oggi c'è il cattensato, la sera del pescatore. Si dovrebbe stare anche bene perché c'è un bel venticello. Domani ci dovrebbe essere l'ultima giornata della sfilata dei casi. Forse anche oggi c'è anche oggi c'è festa, però non so esattamente che cosa c'è. E si è congelato stasera, ho capito. Ma va bene, ma cazzo dici, ma forse non lo sentivi. Vabbè, dai, grazie, sono passato, sono via. Non sono qua a superare le 5, non mi sono spostato da 5. Ciao Gianpaolo, pesci via. Un peso è già vince. Ehi, a tu un preso. Ma quel pescatore mi hai sentito, no? Lui. Sono calato a mattare, non me ne danno 9 tutta la cosa congelata. Vabbè. Dai, sto facendo la prima galleria, fase di rientro. Bene, già sono qua. Quando ci vediamo. essere succhiato, perché non succhiamo neanche. Carità. Io non parlo con quelle poche persone, poi sai che puoi parlare, e basta, ma ti ripeto, adesso in questo periodo di agosto poi io adesso lavoro la prossima settimana, poi me ne vado fuori qualche giorno, mia moglie e mia figlia ce la prendono tutti quanti nel culo. E non è che sono ferie, ho chiesto così, un pochino di riposo, ma non so neanche se mi disegnano come ferie, capito? Sono recuperi che devo fare di straordinari non pagati e di cose che ho fatto, che mi hanno promesso e mai dato, e allora quando poi facciamo la presa adesso mi metto a casa 3-4 giorni e barrangiare c'è tutto. Se vedi le gambe posso andare io a prendere i polpi.